Focus Economia. Con Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, ben ritrovati, sono le 17:07 minuti circa, nuovo appuntamento con Focus Economia, inizio di settimana che in verità avremmo voluto raccontarvi in maniera diversa, con un rialzo dei listini che era così fino a un'ora fa circa, poi tutti i listini hanno invertito la rotta, adesso il segno meno compare in tutti i grafici, compresa Wall Street, quindi il Dow Jones cede uno 0,83%, il Nasdaq cede l'1,63%, l'Europa ha girato tutta in rosso, Parigi cede uno 0,62%, Francoforte l'1,78%, Londra cede lo 0,62%. Giù anche Milano, il MIB in flessione dell'1,61%, l'S&P MIB dell'1,27%. E non c'è il collega Barisoni a godere del calo delle borse, così come ci scrive un ascoltatore, ma noi non sentiremo il gufo perché vogliamo comunque sperare che qualcosa possa cambiare nel finale, anche se mancano ai noi poco più di 20 minuti alla chiusura dei listini. Almeno per quanto riguarda l'Europa, poi staremo a vedere che cosa succede negli Stati Uniti e comunque Unicredit continua ad essere il miglior titolo, guadagna 3 punti percentuali, a dir la verità un po' lontano da quanto guadagnava questa mattina, il rimbalzo era davvero notevole, sfiorati gli 8 punti di guadagno, Enel più 1,29%. Fastweb guadagna l'1,09%, UbiBanca lo 0,41%, in questo momento anche Intesa San Paolo è in calo, anche se fino a circa un'ora fa era il secondo miglior titolo del listino. Ovviamente torneremo più tardi a dedicare un'ampia pagina ai mercati per capire che cosa è accaduto oggi, rimbalzo nella prima parte della seduta e poi dopo un calo generalizzato, a dir la verità anche Wall Street aveva aperto con il segno più, ma comunque dopo avremo tempo per capire sia dal punto di vista europeo sia dal punto di vista americano che cosa ha caratterizzato la giornata di oggi. Oggi dedicheremo molto spazio a quello che è successo nel weekend. Un weekend davvero denso di appuntamenti, cominciato venerdì con l'approvazione da parte di Bruxelles dei Tremonti Bonds, se ne è occupato ovviamente anche Focus Economia. Il tutto è proseguito poi sabato con il Forex, che è il convegno annuale delle associazioni finanziarie, in cui ampio spazio e ampia attenzione è stata dedicata ai Tremonti Bonds. Ha parlato il governatore Draghi, hanno parlato molte altre personalità, poi le ascolteremo, e sempre sabato è tornato a parlare il ministro Tremonti da una conferenza stampa all'Aspen, e poi domenica, giornata molto importante in Europa perché si è tenuto il vertice europeo a Berlino, doveva essere un po' una tappa da punto della situazione, una tappa intermedia tra il G20 di Washington dello scorso novembre e il prossimo ai primi di aprile a Londra, e invece sono arrivate già dei punti fermi, delle decisioni prese dagli stati europei, capiremo poi di che si tratta e soprattutto fin dove si può arrivare con queste decisioni, e poi ci sposteremo negli Stati Uniti perché ci sono delle novità, o almeno ci sarebbero delle novità importanti su Citigroup, e poi oggi Obama dovrebbe presentare le prime linee per quanto riguarda la finanziaria statunitense, che si ripromette di abbattere il deficit nei prossimi 5 anni, e poi soprattutto delle misure fiscali da adottare sui redditi più alti, in realtà si tratta dei redditi oltre i 250 mila dollari. Comunque vedremo, ne sapremo qualcosa di più nel corso della seconda parte di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms, come sempre scriveteci. Adesso invece andiamo a vedere quali sono le notizie in breve. Come al solito partiamo dal petrolio. Negli scambi a New York il greggio ha aperto in rialzo del 2,2% a 40,92 dollari al barile. È probabile che l'OPEC decida il 15 marzo un nuovo taglio della sua produzione di petrolio per tentare di stabilizzare i prezzi che stanno scendendo. Questo è quanto ha dichiarato il ministro algerino dell'energia e delle miniere, Chakib Khelil. Domani si svolgerà il vertice italo-francese e proprio nel corso del vertice Italia e Francia firmeranno un accordo di cooperazione sul nucleare. Il presidente del Consiglio Berlusconi e il presidente francese Sarkozy, questo si legge in una nota del Ministero dello Sviluppo Economico, firmeranno appunto domani a Roma questo accordo di cooperazione sull'energia nucleare. E alla vigilia del summit italo-francese il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha affermato che la Torino-Lione si farà. Appunto domani Berlusconi vedrà Sarkozy a Roma e lo ha voluto rassicurare sulla Torino-Lione attraverso un'intervista a Le Figaro. Poche settimane fa il mio governo ha confermato il commissario Mario Virano alla presidenza dell'osservatorio tecnico sulla Torino-Lione, questo a quanto ha affermato Berlusconi. Intendiamo accelerare il lavoro per completare il corridoio 5. L'alta velocità era nel nostro programma elettorale, c'è pieno accordo nel governo e quindi si farà. E veniamo alle note dolenti di oggi. In realtà si tratta di un dato positivo per quanto riguarda l'inflazione. L'inflazione è scesa all'1,6% dal 2,2 di dicembre, su base mensile i prezzi sono calati dello 0,1. Questo è quanto ha comunicato l'Istat, confermando la sua stima preliminare. L'inflazione per i prodotti acquistati con maggiore frequenza, e quindi parliamo di alimentari, tabacchi, carburanti e giornali, è scesa a gennaio all'1,4%, è un rallentamento sensibile rispetto a dicembre, quando era risultata pari al 2,1%. Ci sono ovviamente dei settori che invece aumentano, parliamo ad esempio dell'abbonamento alle pay TV, che è aumentato a gennaio del 14,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, questo è quanto appunto ha comunicato l'Istat. Sempre per quanto riguarda i settori che non accennano a diminuire, troviamo anche la pasta, più 25%, anche il pane aumenta, più 2,7%. Voci in calo invece il gasolio, meno 17,6% rispetto a gennaio 2008, la benzina cala del 18%. E come ogni giorno vi rendiamo conto dell'Euribor, dell'andamento dell'Euribor, continua la corsa al ribasso di questo indice a 3 mesi, oggi ha toccato un nuovo minimo storico, scendendo dall'1,88 all'1,87%. Crisi in Asia, un fondo da 120 miliardi di dollari di riserve valutarie estere per proteggere le proprie valute da futuri terremoti finanziari. Questo è quanto hanno deciso i governi di Cina, Giappone, Corea del Sud e altri 10 paesi del sud-est asiatico, in seguito al summit dei rispettivi ministri delle finanze che si è svolto ieri a Phuket in Thailandia. E lo dicevamo prima per rendervi conto un po' dei temi che tratteremo oggi. Vertice alla Casa Bianca in questa giornata per discutere dell'impostazione del bilancio federale. La bozza verrà poi presentata giovedì al Congresso. Tra le misure previste, il taglio dei fondi per le operazioni in Iraq, l'abolizione dei tagli fiscali introdotti dall'amministrazione Bush per i redditi superiori ai 250.000 dollari l'anno. Le misure puntano a ridurre un deficit pubblico che quest'anno sforerà il 10% del PIL a 1.300 miliardi di dollari e che Obama vorrebbe riportare intorno al 3% entro il 2013. Restiamo negli Stati Uniti perché un caso di oggi è proprio quello che interessa Citigroup. Le autorità statunitensi starebbero progettando una parziale nazionalizzazione del gruppo bancario, al termine della quale diventerebbero proprietarie dal 25 al 40% del capitale. Questo è quanto scrive il Wall Street Journal, riferendo di una proposta avanzata dai responsabili del gruppo bancario alle autorità di controllo. Ricordiamo che Citigroup è nota negli ambienti finanziari statunitensi come la Zombie Bank. Possiamo dire due dati al riguardo: 45 miliardi di perdite, la capitalizzazione è scesa da 255 a 12 miliardi di dollari, ha ricevuto aiuti diretti per 45 miliardi, ma se si considerano anche le garanzie sui crediti, i sostegni pubblici arrivano a 249 miliardi di dollari, pari più o meno alla capitalizzazione originaria. In seguito a queste notizie riportate dal Wall Street Journal, è stata emessa una nota dalle principali istituzioni finanziarie statunitensi. Le autorità finanziarie ribadiscono la convinzione che le banche resteranno in mani private. Questo è appunto quanto si legge in una nota della Federal Reserve, del Tesoro e di altre autorità americane, che fissa per il 25 febbraio la data d'inizio dei test per verificare la tenuta dei principali istituti di credito. Merito a nazionalizzazione sì, nazionalizzazione no, c'è anche uno scambio di vedute tra l'ultimo premio Nobel per l'economia Krugman e quanto ha dichiarato qualche giorno fa Alan Greenspan, ex governatore della Fed. Krugman scrive: ha ragione il compagno Greenspan quando sostiene che una nazionalizzazione parziale delle banche rischia di essere inevitabile. Questo è quanto scrive Krugman in un fondo pubblicato oggi sul New York Times. Ovviamente Krugman adotta toni ironici affermando che il compagno Greenspan vuole che prendiamo le redini dell'economia. Ricordiamo appunto che Greenspan è stato un grande sostenitore, difensore dei mercati liberi. In realtà poi dice quello che Alan Greenspan intende e ha detto è che potrebbe essere necessario nazionalizzare temporaneamente alcune banche in modo da agevolare una ristrutturazione morbida e ordinata, e su questo, dice Krugman, sono d'accordo. E poi anche la Banca Centrale Europea registra i primi segnali di un calo dell'offerta del credito. Questo è quanto ha dichiarato Jean-Claude Trichet, il quale dice: i primi segni di una flessione dell'offerta del credito sono stati ravvisati. Lo ha detto il Presidente nel suo intervento in una conferenza a Parigi, precisando che il calo non era solo legato alla flessione della domanda, ma anche a condizioni di finanziamento più restrittive. E noi è da un po' che ce ne accorgiamo in Italia e non solo, e adesso se ne accorge anche la Banca Centrale Europea. E allora siamo arrivati al primo tema importante da affrontare oggi, appunto lo dicevamo, un weekend denso di appuntamenti. Cronologicamente partiamo da quanto avvenuto venerdì sono stati approvati da Bruxelles i Tremonti Bonds, e poi sabato il Forex, a cui è intervenuto Mario Draghi e molti altri esponenti della finanza italiana, e poi ieri il vertice straordinario di Berlino sulla crisi, vertice a cui hanno partecipato i capi di Stato europei. Noi siamo in collegamento telefonico, non ancora, mi dicono, tra poco ci collegheremo con il professor Donato Masciandaro, che è ordinario di economia politica e profondo conoscitore del sistema bancario. Prima però vogliamo farvi sentire quanto ha dichiarato il governatore Draghi al Forex, il quale non ha parlato solo di banche e di sistema bancario, ma ha parlato anche delle ripercussioni sull'occupazione di questa crisi. Il governatore ha detto: queste ripercussioni non si sono ancora pienamente manifestate. Sentiamolo. Le ripercussioni sull'occupazione non si sono ancora pienamente manifestate. Al calo della produzione si associa un repentino aumento del ricorso alla cassa integrazione guadagni. Le imprese si attendono una flessione dell'occupazione nei prossimi mesi. La caduta della domanda può colpire con particolare intensità le fasce deboli e meno protette, i lavoratori precari, i giovani, le famiglie a basso reddito. Per più di 10 anni l'occupazione è cresciuta in Italia a ritmi sostenuti. Tra il 1995 e il 2008 si erano creati 3,5 milioni di posti di lavoro, soprattutto grazie all'andamento moderato delle retribuzioni e alla maggior flessibilità del mercato del lavoro. Sono più che raddoppiate le posizioni temporanee. Nel terzo trimestre del 2008 l'insieme dei lavoratori a termine, interinali e a progetto sfiorava i 3 milioni. Per circa 4/5 di questi lavoratori il contratto giunge a scadenza entro un anno. Su di loro grava un rischio particolare. A stretto giro di posta, sempre sabato, dall'Aspen, però questa volta ha risposto il ministro dell'economia Giulio Tremonti, il quale ha detto: il problema è stato gestito bene e in tempo. Sentiamolo. Quello che posso dire è soltanto che il governo ha da tempo gestito nei termini che poteva e doveva da molto tempo questo fenomeno, e pochi giorni fa è stato definito un importante accordo con le regioni sugli ammortizzatori sociali. Noi siamo convinti di aver visto per tempo i fenomeni e di averli gestiti nel modo migliore. Ma torniamo a quanto è accaduto e quanto si è detto al Forex. Dicevamo, sicuramente tanto spazio, tanta attenzione è stata data ai Tremonti Bonds, sono stati approvati da Bruxelles venerdì. Ricordiamo che questi bond sono previsti dal decreto anticrisi varato dal governo, sono delle obbligazioni emesse dalle sole banche quotate, quindi quotate in borsa, sottoscritte dal Tesoro, per sostenere la capitalizzazione degli istituti di credito, ma comunque sottoposta ad alcuni vincoli da parte delle banche. La cifra complessiva messa a disposizione dell'operazione è intorno ai 10 miliardi di euro. Il rendimento assicurato da queste obbligazioni, secondo quanto prescrive l'Unione Europea, è del 7,5%. E allora, in merito ovviamente a questo tipo di obbligazioni, si è espresso il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, il quale ha anche detto che in questo frangente diviene pressante procedere a nuove ricapitalizzazioni, questo per quanto riguarda gli istituti bancari, mirate allo sviluppo, a interventi di sostegno degli attivi bancari. È un invito da parte del governatore. Il governatore ha anche detto: se i fondi messi a disposizione dallo Stato sono di dimensione adeguata, se le condizioni che accompagnano gli interventi sono ragionevoli e concrete, non si esiti a utilizzarli. Quindi ha invitato le banche ad utilizzare questo strumento delle obbligazioni. Sentiamo Draghi. L'approccio al rafforzamento patrimoniale delle banche deve essere pragmatico. Le banche devono adottare tutte le misure necessarie e cogliere tutte le occasioni opportune. Alcuni gruppi hanno già cominciato ad agire con la dismissione di attività non essenziali, con la destinazione degli utili al rafforzamento del capitale e con il ricorso al mercato. Saranno presto disponibili, con il perfezionamento dei provvedimenti attuativi, i fondi pubblici previsti dalla legge numero 2 del 2009. Anche in proficuo dialogo con il sistema bancario, gli strumenti offerti dallo Stato sono stati affinati nei margini concessi dalle regole comunitarie. Sono stati affinati al fine di offrire una gamma di strumenti adattabile alle esigenze di ciascuna banca o gruppo. Se i fondi messi a disposizione dallo Stato sono di dimensione adeguata, se le condizioni che accompagnano gli interventi sono ragionevoli e concrete, tese a ottenere l'obiettivo senza ingerenze amministrative né le scelte imprenditoriali, non si esiti ad utilizzarli questi fondi. Allora, abbiamo detto che queste obbligazioni sono intese anche a sostenere la capitalizzazione degli istituti di credito. In realtà poi Tremonti è intervenuto sempre sabato facendo anche una precisazione. Quei soldi non servono alle banche ma alle imprese. Perché? Perché queste obbligazioni dovrebbero, e quindi questa erogazione di denaro sostanzialmente, dovrebbe servire affinché le banche siano più disponibili nei confronti di chi chiede un credito. Sentiamo cosa ha detto Tremonti. Non è il tesoro che va dalle banche, ma le banche che vengono dal tesoro. E quei soldi non servono alle banche, ma alle imprese. Servono a allargare la base patrimoniale per allargare il servizio di liquidità alle imprese. E comunque noi il 2 o il 3 di marzo faremo il Credit and Liquidity Day, per verificare com'è la situazione del credito e della liquidità al sistema industriale, alle imprese, a partire dalle piccole imprese, che le grandi se la cavano da solo, mi pare come di capire. Il nostro vero obiettivo sono le piccole e medie imprese, e quindi chiameremo rappresentanti a piccole e medie imprese, e coinvolgeremo, ed è nel decreto legge e nella legge dobbiamo applicarlo, sul territorio attraverso le prefetture e nelle prefetture tutti gli operatori dei territori. Usando il modello francese, nelle prefetture degli osservatori, dei gruppi che devono rilevare le situazioni critiche o più critiche per tenere sotto controllo il fenomeno. C'è da rilevare comunque che fino a questo momento non sono state portate alla luce delle criticità. Tremonti lo ha ribadito, è la Banca d'Italia che ha il dovere e il potere di vigilanza, se rileva situazioni critiche deve comunicarle al governo e il governo potrà poi intervenire, però finora così non è stato. Sentiamo Tremonti. C'è la Banca d'Italia, la Banca d'Italia ha il dovere e il potere di vigilanza. Se rileva situazioni critiche deve comunicarle al governo e il governo può intervenire. Finora questo non è stato. E questo dovrebbe quindi fugare anche qualsiasi dubbio, qualsiasi timore nei confronti di una possibile nazionalizzazione di banche italiane, ma poi chiederemo anche l'opinione del professor Masciandaro. E in merito alla cifra stanziata, quindi 10 miliardi di euro, Deborah Rosciani lo ha chiesto in merito proprio all'entità della cifra indicata, ha chiesto il parere del presidente dell'ABI, Corrado Faissola, proprio a margine dei lavori del Forex. Sentiamolo. Il governo ha indicato, direi, 10 miliardi di euro, 10 miliardi. Ecco, io penso che in questa fase l'importo sia, direi, adeguato. La crisi per quanto riguarda il sistema bancario internazionale si è già manifestata in modo molto acuto. E dove non si è ancora manifestata, per fortuna, è nel sistema bancario italiano, ma il governatore ha altresì sottolineato come preoccupazione di tutti noi, come direi i nostri attivi siano costituiti prevalentemente da crediti nei confronti dell'economia reale, e se l'economia reale dovesse avere un lungo periodo di recessione è fuori di dubbio che questi crediti, che oggi sono buoni o molto buoni, potrebbero diventare un po' meno buoni. Oltre al presidente Faissola sentiamo adesso anche il parere, l'opinione dei diretti interessati, ad esempio Giovanni Bazzoli, il presidente del consiglio di sorveglianza di Intesa San Paolo, proprio sui Tremonti Bond, interpellato da Stefano Totoro. Appena noi avremo la possibilità di vedere il testo, noi lo studio lo faremo in tempi rapidissimi. Non voglio però con questo anticipare nulla, nel senso che noi siamo sicuramente interessati a studiare questo, però finché io non ho visto il contenuto non posso evidentemente pronunciare, ma credo che che possa essere uno degli elementi. Certamente occorrono altre cose. Il governatore ha fatto riferimento ad alcuni interventi anche che riguardano direttamente il mondo bancario, che sono sacrosanti, quando ha parlato di una diversa tassazione delle perdite sui crediti, diversa in Italia rispetto all'Europa. Insomma, qui parliamo di globalizzazione, la prima globalizzazione è quella interna all'Unione Europea. Questo al limite diventa quasi un diritto delle banche di chiedere un uguale trattamento. E sentiamo anche quanto ha dichiarato l'amministratore delegato di Unicredit, Alessandro Profumo. Le risorse che i governi hanno messo a disposizione per sostenere la capitalizzazione delle banche in vista di un anno particolarmente difficile per l'economia mondiale saranno canalizzate per sostenere le imprese e le famiglie. Oggi più che mai è necessario che le banche sappiano comprendere con rapidità le necessità attuali della loro clientela e sappiano fornire con altrettanta rapidità soluzioni in termini di prodotti e servizi veramente capaci di rispondere a tali necessità. In una fase così delicata dell'economia è necessario che le banche sappiano offrire prodotti più semplici rispetto al passato, assolutamente trasparenti e facili da apprezzare. Dietro a queste scelte apparentemente semplici vi è anche la necessità di rivedere in buona misura il modello di business di molte banche. Queste dovranno focalizzarsi maggiormente sulle attività di banca commerciale e dovranno soprattutto mantenere al loro interno i rischi legati ai prodotti di investimento. Le 17:35 minuti, allora abbiamo sentito i commenti relativi ai Tremonti Bond, quanto ha detto il governatore Draghi, quanto ha ribadito Tremonti, quanto hanno detto i banchieri. Adesso sì, siamo in collegamento telefonico con il professor Donato Masciandaro, ordinario di economia politica alla Bocconi. Buon pomeriggio, professore. Buon pomeriggio a voi. Allora, professore, io prima di continuare a parlare di quanto è emerso proprio nel weekend, vorrei chiederle subito un suo commento su questi Tremonti Bond, più che altro per capire se secondo lei è uno strumento un po' per tirare il fiato o è invece qualcosa capace di incidere più a fondo. Credo che il punto essenziale sia partire da un paradosso. Il paradosso è che i sistemi bancari peggiori in questo momento sono avvantaggiati. Quello che è successo è che i sistemi bancari con banche sull'orlo della bancarotta hanno visto un forte intervento dello Stato. E quindi significa avere garanzie illimitate. Non è il caso del nostro sistema bancario, e qui è il paradosso. Oggi le banche più sane sono svantaggiate sui mercati, quindi in qualche misura bisogna riequilibrare lo squilibrio concorrenziale. Credo che i Tremonti Bond nascono proprio dalla ricerca di una soluzione a questo paradosso. Le nostre banche non sono sull'orlo della bancarotta, però sono svantaggiate dal fatto che tutti gli altri stati sono pesantemente intervenuti in aiuto dei loro intermediari. Quindi per una volta che stiamo meglio degli altri, che facciamo meglio degli altri, siamo in qualche modo presi di mira, tra virgolette, dal mercato. Sì, anche perché il mercato che ricordiamo è fatto di operatori finanziari e non di benefattori, piace l'idea che lo Stato possa controllare i nostri risparmi. Francamente, come cittadini, questa è una prospettiva che non ci dovrebbe piacere molto. Mi sembra anzi che si stia un po' sottovalutando l'urgenza, l'emergenza di certe situazioni nazionali, questo tracimare della politica nel settore bancario, che sappiamo di solito non è mai foriera di grandi risultati se il tracimamento supera il breve periodo. Allora, in merito a quanto dicevamo, quanto è accaduto nel weekend, c'è stato anche un po' di attrito in merito alle regole. Perché? Perché il ministro Tremonti ha dichiarato che le regole contabili di adesso causano la crisi ad un livello suicida e quindi è tornato a chiedere l'abrogazione delle attuali regole di contabilità finanziaria. Sentiamolo. Le vecchie regole contabili, vecchie fino al 1998, funzionavano. Le nuove regole contabili, a partire da mark to market, vanno riviste perché producono effetti prociclici, sono suicide. Quando le cose vanno bene moltiplicano i risultati, quando vanno male geometricamente li moltiplicano verso il basso, non sono equilibrate. Quindi non un mondo senza regole contabili, un mondo con regole contabili molto più equilibrate. Molti titoli non sono tossici, vendo un neologismo, sono radioattivi, sono diventati radioattivi. Allora, interventi molto forti in quel settore dove ci sono titoli radioattivi, occorre un contatore Geiger, suppongo, sulla carta geografica, ma anche cambiare le regole contabili. Realmente è una cosa fondamentale per reintrodurre fiducia e evitare. E poi grandi regole generali, non solo nel settore finanziario, ma sulla proprietà, la trasparenza. Ci sono vari insiemi. In generale le regole dentro alcuni comparti come quello finanziario contabile. Le regole a cui si è riferito il ministro Tremonti comprendono quelle di Basilea 2. Che cos'è Basilea 2? È un sistema operativo in Italia dal gennaio dello scorso anno, è un accordo internazionale che ha ridefinito i criteri con cui le banche concedono finanziamenti alle imprese, un elemento molto importante all'introduzione del rating, e quindi tutti gli istituti di credito devono dare un voto di affidabilità ai loro clienti e poi accantonare fondi in quantità proporzionale alla rischiosità del prestito. In merito alle regole, compresa Basilea 2, ha in qualche modo risposto al ministro Tremonti Lorenzo Binismaghi, che è uno dei consiglieri della Banca Centrale Europea. Ascoltiamo. Quando ci sono delle regole vanno rispettate, si possono migliorare, non bisogna tornare indietro, non bisogna tornare a Basilea 1, che è ancora più prociclico. E durante una crisi di fiducia come questa, cambiare le regole rischia di ridurre ancora di più la fiducia. Sospendere Basilea 2, come dicono alcuni, rischia di creare un vero problema di fiducia, perché ora non si sa più come le banche contabilizzano il capitale e tutta la lista degli attivi e del passivo. Professor Masciandaro, come vede lei tutta questa questione in merito alle regole? E anche, tra l'altro, il commissario Almuni è tornato a dire che forse queste regole di Basilea 2 dovrebbero essere un po' adattate al momento. Il ministro Tremonti ha ragione quando dice che le regole devono essere cambiate. Lorenzo Binismaghi ha ragione quando dice che cambiarle senza prospettive sarebbe un rimedio peggiore del male. Il punto è che è vero che le regole vanno cambiate in meglio, ma alcuni paesi non possono permetterselo. Quello che voglio dire è che oggi alcuni paesi, senza far nome l'Italia, potrebbero serenamente riconsiderare un sistema in cui si davvero ripensa a come rimodulare le regole perché corrispondano al rischio, anche perché nel nostro paese questo è avvenuto. Noi non abbiamo avuto la finanza non regolamentata degli Stati Uniti, questo è un po' vero in tutta l'Europa tranne nel caso del Regno Unito. Il punto è che direi soprattutto gli americani questo oggi non possono permetterselo, quindi cadremmo nello scenario giustamente demonizzato da Binismaghi, cioè non potremmo proporre qualcosa di meglio, quindi una sospensione delle regole sarebbe un disastro. Ah beh, certo. Occorre ripensarle e ci sono già delle proposte in campo. Oggi non è il momento, e che non sia il momento lo mostra anche il rullare di tamburi su aspetti marginali. Voglio dire, i capi di stati europei che ieri si riuniscono per dire che bisogna spezzare le reni agli hedge fund, ai paradisi fiscali, esatto, che non c'entrano nulla con questa vicenda, e guarda un po' alle agenzie di rating, sembra un po' la montagna che vuol partorire il topolino. I problemi sono altri, il punto è che tutto è nato negli Stati Uniti, tutto dovrà finire lì, e non ci sono però in questo momento le condizioni economiche e finanziarie in quel paese per cambiare davvero le regole. Allora, professore, lei con uno scatto in avanti siamo già passati a quello che poi è accaduto domenica, ovvero il vertice straordinario a Berlino dei capi di Stato europei, che appunto doveva essere solo un momento per cercare di mettere un po' i puntini sulle i per chiarire un po' la situazione in vista del prossimo G20 di Londra, e invece ne è uscito fuori un documento d'intesa in cui ci sono 5 punti fondamentali, e tra questi appunto lei ricordava maggiori regole richieste, maggiori controlli sugli hedge fund e poi soprattutto richiesta di sanzioni contro i paradisi fiscali che non intendono collaborare. Secondo lei, al di là del fatto che insomma già espresso la sua opinione, quindi questi sono semplicemente palliativi rispetto alla crisi che si sta consumando, sarebbe comunque una cosa possibile imporre delle regole agli hedge fund, che comunque ricordiamo sono dei fondi in cui privati affidano il proprio denaro gestito poi da manager? Ne esistono di molti tipi, non ce n'è un solo tipo, ma è possibile tecnicamente dare a loro delle regole precise da rispettare in tutto il mondo? Il tema di meglio regolamentare gli strumenti che finora non lo sono stati è un tema che si può affrontare tenendo conto che il principio forse che può far più strada è quello almeno della trasparenza, e che comunque sarà una trasparenza minima, perché è un mercato, uno forse di quelli più completamente integrati, e quindi forme di regolamentazioni troppo forte creerebbero il meccanismo della regolamentazione al ribasso. Quindi si può fare e direi che si deve anche fare, Mi colpisce negativamente l'ordine delle priorità, è come se di fronte a una falla in una diga ci si stesse preoccupando delle galosce. Credo che il problema sia un altro, insomma. E secondo lei che cosa, o almeno in prospettiva, pensando al G20 di Londra, quale dovrebbe essere il primo punto a questo, insomma, in questo frangente, visto che poi, oltre agli hedge fund e ai paradisi fiscali, ieri si è discusso dei super bonus pagati ai manager, o ad esempio di qualsiasi forma di contrasto ai provvedimenti protezionisti, e anche poi allo stanziamento da 500 miliardi di dollari aggiuntivi a favore del fondo monetario? Ma poi su questo le farò un'altra domanda. Quale dovrebbe essere secondo lei proprio la priorità del prossimo G20? Tre domande a cui, dopo quello che è successo, occorre rispondere, e devono iniziare i paesi industrializzati. La prima: che cos'è una banca? Cos'è banca e che cos'è non banca? Perché tutto quello che è successo nasce dall'intreccio del cosiddetto settore finanziario ombra, non regolamentato, con il settore bancario tradizionale. Quindi la prima domanda è: che cos'è una banca? Che cosa può fare, che cosa non può fare? Seconda domanda: che cosa succede quando una banca diventa pubblica? Quello che stiamo osservando è una nazionalizzazione più o meno strisciante dei sistemi bancari, quindi questo significa che l'allocazione del risparmio privato sarà sempre più sottoposta al rischio di ingerenza pubblico. E questo è un problema. Terzo, chi controlla un sistema bancario in cui lo Stato diventa sempre più presente? Il tema, che è ormai diventato classico, dell'indipendenza delle authority dovrà riempirsi di nuovi significati. Ecco, rispetto a queste, che sono le tre domande fondamentali: che cos'è una banca, quanto lo Stato deve ingerire in una banca e chi controlla un sistema bancario in cui lo Stato è tracimante, bene, sono queste le tre grandi domande che non troveranno una risposta a Londra. Beh, però su questa nota, no, di... Se poi la trovano, risentiamoci. Meglio così. E scopriremo. Allora, professore, facciamo così: noi, quando appunto il 2 aprile ci sarà questo vertice, ci risentiamo, così vedremo che cosa ne sarà uscito e se saranno riusciti almeno a rispondere a qualcuna di queste domande, perché non si sa mai. Dobbiamo sempre e comunque avere fiducia. Grazie al professor Masciandaro per essere stato con noi. A lui buon lavoro, buon pomeriggio. Grazie anche a voi. Le 17:49 e a questo punto apriamo la pagina dedicata ai mercati. Ho sperato con tutte le mie forze che in chiusura potessimo vedere qualche segno positivo sui listini europei, purtroppo non è stato così. Parigi ha chiuso in flessione dello 0,82%, Francoforte lascia sul terreno quasi 2 punti percentuali, Londra lo 0,76%, a Milano il MIB in flessione dell'1,29%, l'S&P MIB dello 0,90%. A Wall Street cosa stanno facendo i listini statunitensi? Il Dow Jones cede l'1,19%, il Nasdaq il 2,11%. Buonasera, ben ritrovato ad Andrea Fontana, collega di Radiocor, benvenuto. Buonasera Valeria. Allora, oggi una giornata che appunto in apertura ci aveva dato tanta speranza e tanta fiducia, e invece poi appunto si è conclusa così. Però comunque tutto sommato per Unicredit è stata una buona giornata. Sì, per una volta una giornata non nel segno negativo dei bancari, non che il settore sia andato particolarmente bene, ha perso complessivamente l'1% in Europa, ma non è stato il peggiore. Il settore auto e i titoli del comparto industriale sono stati invece più penalizzati rispetto ai finanziari. Tu ricordavi Unicredit, è stato il titolo più brillante dell'SBMIB, ha guadagnato il 3,7% nel finale, ma va detto che la correzione è stata molto forte rispetto ai rialzi di questa mattina, che avevano portato il titolo ben oltre un euro a guadagnare circa il 12%. Avevano contribuito e hanno contribuito tutto sommato a sostenere l'andamento del titolo le parole dell'amministratore delegato Alessandro Profumo, che nel weekend aveva ribadito l'obiettivo di utile 2008 a 4 miliardi, aveva cercato di tranquillizzare i mercati e gli operatori sull'esposizione nell'est Europa dell'istituto di credito. Questo ha avuto i suoi frutti, complice anche le forti perdite del titolo la scorsa settimana. Non è stato l'unico dei bancari ad andare bene, anche UbiBanca e Monte dei Paschi hanno concluso oltre, diciamo così, la linea di galleggiamento. Forte la correzione in negativo rispetto a questa mattina per Intesa San Paolo, che ha perso l'1,5, molto male tra i finanziari Mediolanum, che ha perso l'8. Andrea, sospese a Piazza Affari il titolo Generali e Alleanza, mentre oggi appunto i consigli di amministrazione hanno, o almeno questo è quanto noi sappiamo, esaminato un piano di fusione. I consigli sono finiti, si hanno notizie? Per il momento appunto non abbiamo ancora indicazioni su quello che è stato deciso in sede di consiglio di amministrazione di entrambe le società. Come tu ricordavi, i consigli sono finiti a metà pomeriggio, è molto probabile che verranno fatte comunicazioni ufficiali a questo punto con i mercati già chiusi, quindi ce li aspettiamo da un momento all'altro nel corso della serata. Diciamo che questo progetto di fusione, incorporazione, di alleanza in generale era atteso da qualche anno e sempre più consigliato dagli analisti, visto i ribassi dei titoli dell'ultimo periodo. Immaginiamo che si sia concretizzato. Questa sera probabilmente sapremo con quali tecnicalità. Tra, e dobbiamo dirlo purtroppo, i pochi titoli che hanno chiuso con il segno più c'è anche Enel, più 1,82%. Il mercato ha accolto positivamente diciamo la conclusione dell'operazione Endesa, e nel fine settimana ha concluso l'acquisto del 25% di Endesa, che era ancora in mano al gruppo spagnolo Acciona. Questo ha diciamo così permetterà di accelerare sul fronte delle sinergie industriali l'integrazione tra Enel e Endesa. Il mercato lo ha accolto positivamente, ha accolto positivamente anche insomma l'operazione attraverso cui questo 25% è stato rilevato per 11,1 miliardi di euro. Andrea, brusca frenata della Fiat, tra l'altro un'ulteriore frenata sul finale di seduta, visto che Moody's ha tagliato il rating. Sì, per quanto riguarda Fiat, come ricordavo, il comparto auto oggi è negativo. Fiat ha fatto peggio rispetto alla media del settore, ha perso il 5,6%, peggiorando, come già ricordavi tu, nel finale, quando appunto l'agenzia di rating Moody's ha ulteriormente abbassato il rating, quindi il voto, il giudizio sul debito di lungo termine di Fiat, debito che non è più classificato, rating che non è più classificato come investment grade, quindi sta nella parte diciamo così dei cattivi, diciamo così, il debito Fiat secondo Moody's. Questo ha contribuito a far perdere il titolo oltre il 6%, e poi c'è stato un piccolo recupero proprio nell'asta finale. A chi ci chiede che cosa ha fatto il Banco Popolare, giù anche il Banco Popolare, meno 3,72%. Invece, Andrea, noi vediamo tra gli editoriali che cosa è successo su Seat Pagine Gialle. Per quanto riguarda Pagine Gialle, Seat Pagine Gialle è ancora una giornata diremmo da dimenticare. È davvero da dimenticare, proprio perché oggi meno 17,86%, questa è la chiusura. Esatto, venerdì c'è stata la presentazione nei dettagli del piano strategico 2009-2011 da parte della società torinese che edita appunto le pagine gialle. Per la verità, gli obiettivi che sono stati forniti venerdì, quelli soprattutto di riduzione dell'indebitamento, che è ciò che pesa di più per il mercato sul titolo, riduzione dell'indebitamento a 2,4 miliardi di euro nel 2011, e gli obiettivi di leggero recupero del margine operativo lordo in questo triennio, questi obiettivi non sono piaciuti troppo al mercato e più che altro non nella presentazione del piano strategico non ci sono stati elementi di novità reale che hanno permesso alle case di investimento di tornare prepotentemente sul titolo con acquisti. Con il peggioramento del mercato nel pomeriggio è stato il primo titolo ad essere fortemente penalizzato. E quindi speriamo nei prossimi giorni e vedremo che cosa accadrà. Grazie ad Andrea Fontana, a lui buon lavoro e buon proseguimento. Le 18:08, ben ritrovati, seconda parte di Focus Economia. Velocemente la chiusura dei listini europei: Parigi meno 0,82%, Francoforte meno 1,95%, Londra meno 0,99%, a Milano il MIBTEL ha chiuso in flessione dell'1,29%, l'S&P MIB dello 0,90%. In questo momento il Dow Jones si appesantisce, cede l'1,44%, peggio anche il Nasdaq meno 2,29%. E poi sono stata ripresa perché non do mai il cambio euro su dollaro, 1,2734 il cambio in questo momento della moneta unica sul biglietto verde. Alcune delle notizie in breve di oggi: partiamo con l'inflazione, l'Istat conferma, a gennaio il dato scende, l'inflazione è scesa all'1,6% dal 2,2% di dicembre, su base mensile i prezzi sono calati dello 0,1%. L'inflazione per prodotti acquistati con maggiore frequenza, tra cui appunto ci sono anche e soprattutto gli alimentari, i carburanti, ma poi anche i tabacchi, i giornali e altro. Questo dato, l'inflazione per questo paniere particolare è scesa a gennaio all'1,4%, in rallentamento rispetto a dicembre, quando era risultata pari al 2,1%. In un mese i prezzi anche in questo caso sono diminuiti dello 0,1%. Ovviamente poi all'interno ci sono varie tipologie che invece hanno accelerato il passo. Ad esempio, a gennaio l'abbonamento alle pay TV è aumentato del 14,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. È aumentata anche la pasta, più 25%, il pane più 2,7%, però lo abbiamo detto, hanno rallentato i carburanti, il gasolio meno 17,6% rispetto a gennaio 2008, la benzina in calo del 18%. Per quanto riguarda il credito, dobbiamo registrare che anche la Banca Centrale Europea ha osservato nel corso delle ultime settimane i primi segni di una flessione dell'offerta di credito. Questo è quanto ha dichiarato il presidente Jean-Claude Trichet in un intervento in una conferenza a Parigi, precisando che il calo era non solo legato alla flessione della domanda, ma anche alle condizioni di finanziamento più restrittive, condizioni più restrittive che in Italia si sono cominciate a ravvisare già da settembre, nel senso che a settembre sono arrivati i dati, probabilmente le imprese lo ravvisavano già da prima. E poi ancora, tema molto importante della puntata di oggi, sul quale siamo tornati già venerdì, ovviamente era stato affrontato, ma oggi siamo tornati con tutti i commenti, quello dei Tremonti Bond. È intervenuto lo stesso ministro: quei soldi non servono alle banche ma alle imprese, ha detto il ministro dell'economia in una conferenza stampa all'Aspen. Sentiamolo. Non è il tesoro che va dalle banche, ma le banche che vengono dal tesoro. E quei soldi non servono alle banche, ma alle imprese. Servono a allargare la base patrimoniale per allargare il servizio di liquidità alle imprese. E comunque noi il 2 o il 3 di marzo faremo il Credit and Liquidity Day, per verificare com'è la situazione del credito e della liquidità al sistema industriale, alle imprese, a partire dalle piccole imprese, che le grandi se la cavano da solo, mi pare come di capire. Il nostro vero obiettivo sono le piccole e medie imprese, e quindi chiameremo rappresentanti a piccole e medie imprese, e coinvolgeremo, ed è nel decreto legge e nella legge dobbiamo applicarlo, sul territorio attraverso le prefetture, nelle prefetture, tutti gli operatori dei territori. Usando il modello francese, nelle prefetture degli osservatori, dei gruppi che devono rilevare le situazioni critiche o più critiche per tenere sotto controllo il fenomeno. Allora, dicevamo della stretta creditizia, che anche la Banca Centrale Europea ha cominciato a rilevarla, quindi a rendersene conto. Noi torniamo però a parlarne per quanto riguarda il territorio nazionale. Nell'ultimo anno sono calate le sofferenze sia delle imprese individuali o fino a 5 persone, sia delle grandi imprese, ma dall'ottobre scorso le banche italiane sono quelle che più hanno aumentato la stretta creditizia, specie alle piccole e medie aziende. Questo è quanto sostiene la CGA di Mestre, il cui segretario Giuseppe Bortolussi sostiene che una parte della responsabilità va addebitata alla Banca d'Italia, che nell'ottobre scorso, nelle tentativo di rafforzare il sistema, ha invitato le banche italiane ad aumentare dall'8 al 10% la riserva obbligatoria. Sicuramente poi il dottor Bortolussi spiegherà meglio in questa intervista della nostra Anna Marino. In Italia, dove la situazione dei nostri istituti non sarebbe così drammatica, grazie anche all'iniezione di liquidità e all'abbassamento del tasso ufficiale di sconto da parte della BCE, le nostre banche dovrebbero reagire positivamente, cioè questa liquidità, questo abbassamento dell'Euribor dovrebbero girarlo letteralmente alle imprese e al consumo. Invece quali sono i vostri numeri? Risulta che sono quasi dimezzate le sofferenze bancarie. Nel corso del 2008 sono diminuite del 10%. La raccolta è aumentata dal 6% circa che era di aumento nel 2007 a più 8% nel 2008. Lo spread è altissimo, cioè le banche hanno un vantaggio. Quando raccolgono i soldi dal privato pagano pochissimo, quando lo prestano praticamente la differenza, lo spread è vicino al 12%. Signori, questo è il problema. E abbiamo visto che i prestiti a breve termine alle imprese sono cresciuti solo del 2,5% nel 2007, quando invece era stato dell'8,7% nel 2007. Cioè c'è una differenza notevole. E guardi, c'è una differenza tra le grandi banche e le piccole. Le banche di credito cooperativo, le banche popolari, le casse di risparmio, vedi, hanno aumentato del 14% i finanziamenti alle imprese. Rispetto al comportamento delle imprese che hanno visto scendere il loro stato di sofferenza, cioè il loro stato di insolvenza, ecco, le banche si sono comportate diversamente. Certamente, c'è anche un fatto molto importante a proposito di dati, che a ottobre dell'anno scorso, cosa di cui stranamente non parla nessuno, a ottobre dell'anno scorso la Banca d'Italia aumenta dall'8 al 10% la riserva obbligatoria, la riserva di garanzia, sì che molte banche che erano già a livello di sofferenza cosa fanno? Dovendo accumulare più soldi a garanzia non hanno più soldi per prestare. La Banca d'Italia ha fatto il suo dovere, nel senso di dare garanzie che il sistema bancario tenga, e il nostro è più sano di quello di altre nazioni. Però se non presta i soldi è come una macchina che è perfetta ma non funziona. Ultimamente Tremonti si è pronunciato sui Tremonti Bond e ha detto che non è il tesoro che va dalle banche, ma le banche vengono dal tesoro, cioè i soldi dovrebbero servire per le banche ma anche per le imprese. Secondo lei è un passo avanti? Oggi tutti gli occhi sono sulle imprese, gli occhi dovrebbero essere sui consumatori. C'è una crisi della domanda effettiva. Però secondo voi l'87% delle piccole e medie imprese denuncia una stretta creditizia? Ma certamente, guardi che le aziende in Italia il 95% ha meno di 10 addetti. Bene, l'87% dice che stanno veramente premendo su di loro per ricavare liquidità che serve alle banche. Le banche, per rientrare nei loro parametri di sicurezza, di garanzia, stanno torchiando le piccole imprese. E dunque il segretario Bortolussi denuncia qualcosa che noi stiamo già raccontando da un po' di tempo, magari non in questi termini, ma insomma il senso è quello. Le 18 8 e 18 minuti, davvero questa è l'ultima parte di Focus Economia e ancora una volta torniamo laddove tutto è cominciato, dove questa crisi ha avuto origine, almeno diciamo così, stando a quanto abbiamo potuto vedere e toccare più o meno con mano. Perché torniamo negli Stati Uniti? Perché arrivano numerose notizie oggi. Intanto c'è un caso Citigroup di cui cercheremo di capirne di più. E poi perché quest'oggi alla Casa Bianca vertice per discutere dell'impostazione del bilancio federale. La bozza verrà presentata giovedì al Congresso. Ci sono numerose misure allo studio, misure che sono piuttosto invise a una parte, parliamo dei repubblicani, e ovviamente spinte dall'altra parte, misure che faranno molto discutere. Noi siamo in collegamento con il corrispondente da New York del Sole 24 Ore, Mario Platero, che saluto. Buonasera Mario. Buonasera. Prima buonasera. Di tutto ti chiedo di Citigroup, perché oggi abbiamo visto forte rialzo sul listino prima e nella prima parte della seduta, poi voci di nazionalizzazione tra il 25 e il 40% da parte del governo, poi la nota delle autorità finanziarie statunitensi. Insomma, cerchiamo di capire che cosa sta accadendo su questa che, appunto, ripetiamo, viene definita la zombie bank. Allora, guarda, è una situazione di totale incertezza e vorrei chiarire che fino a quando non si sarà, questo lo ripetiamo e lo continuiamo a ripetere perché è molto importante, credo anche per i nostri ascoltatori, capire che fino a quando non si sarà stabilizzato il settore bancario e finanziario, beh, difficilmente potremo uscire dalle secche, direi anche psicologiche, di questa crisi, perché le banche fanno da volano su tutto. Il problema qual è? È che gruppi importanti come Citi non riescono a rimettersi in piedi, nonostante l'aiuto del governo federale, nonostante la generosissima garanzia su oltre 300 miliardi di dollari di attività patrimoniali del gruppo, quindi una cifra straordinaria, nonostante l'iniezione di capitale vicina ai 30 miliardi di dollari che il governo americano ha effettuato a vantaggio di Citigroup. Le cose continuano ad andare male, il problema non è stato risolto e quindi ci sono varie scuole di pensiero. Perché la paura di qualche giorno fa, quando il titolo Citi ha perso addirittura il 30% in borsa? Perché numerosi economisti, questa mattina di nuovo lo ripete Paul Krugman sul New York Times, ma lo aveva detto Nouriel Roubini la settimana scorsa, numerosi economisti, dicevo, insistono per una nazionalizzazione completa e totale delle banche. Le ragioni sono fondamentalmente tre. Non ci si può più permettere di, diciamo, portare avanti questo stato di incertezza, bisogna uscirne. Le banche in questi 6-8 mesi non hanno dimostrato, soprattutto quelle più vulnerabili come Citi, di poter camminare sulle loro gambe. Non si può rischiare che prolungando questa situazione si va a danneggiare l'impatto del pacchetto di stimoli economici, l'impatto del pacchetto di aiuti per coloro che sono indebitati a fronte delle loro case, dei mutui sulle loro case e così via, così via. E dunque la soluzione più draconiana è quella della nazionalizzazione completa e totale. In questo modo il governo americano interviene, rimette in circolazione e stabilizza le banche, toglie un tappo da quelle che sono le preoccupazioni del mercato, punisce gli azionisti, perché non si capisce per quale ragione gli azionisti di alcune di queste banche debbano poi avvantaggiarsi dal fatto che il governo mette i soldi del contribuente dentro queste istituzioni, le gestisce rimettendo in circolazione il credito per il tempo necessario a rimetterle in piedi, a ridimensionarle e poi a riportarle sul mercato. Il collocamento sul mercato porterà dei flussi di capitale che andranno a ripagare direttamente le casse del governo americano. È un passaggio questo ovviamente filosofico molto, molto difficile ed ecco che dopo le parole di rassicurazione della Casa Bianca, no, non c'è alcun piano di nazionalizzazione, sì, state tranquilli, ecco che sono giunte le voci invece di un piano a metà. Le cose fatte a metà, secondo me, sono quelle che funzionano peggio, per cui staremo a vedere come si metteranno le cose. Per ora, come dicevi tu, si parla di una nazionalizzazione tra il 25 e il 40%, cioè di un ingresso nel capitale delle banche. Ricordiamolo, finora il capitale delle banche era dato a garanzia e comunque le banche erano esposte nei confronti del governo con dei prestiti, con dei debiti che dovevano poi ripagare e su cui pagavano gli interessi. Numerose le gatte da pelare per questo presidente. Dicevamo, oggi il vertice alla Casa Bianca per discutere dell'impostazione del bilancio federale. Il progetto di Obama è molto molto ambizioso, è quello di ridurre il deficit pubblico che quest'anno sforerà il 10% del PIL, parliamo di 1.300 miliardi di dollari circa, e che Obama invece vorrebbe portare a poco più di 500 miliardi entro il 2013. Ma quello che fa discutere sono le misure che Obama vorrebbe adottare per ottenere questo risultato. Beh, certo, perché uno degli elementi centrali è quello di un aumento sulle tasse, che è una cosa che naturalmente lascia molto perplessi i colleghi repubblicani e lascia anche perplessi alcuni economisti. Non è questo il momento, si dice, di aumentare le tasse. La gente ha bisogno di avere disponibilità di denaro, non puoi da una parte fare una manovra di stimolo sull'economia e dall'altra aumentare le tasse, anche se si tratta di tasse su redditi che sono superiori ai 250 mila dollari l'anno e quindi diciamo redditi sicuramente molto molto più elevati di quelli della media, rappresentano soltanto una piccola percentuale della popolazione. Ricordiamolo, questa era una promessa anche elettorale del, certo, in campagna elettorale, del presidente Obama, lo ha continuato a ripetere, quindi lui in questo modo ovviamente aggiunge, diciamo in qualche modo consegna questa sua promessa. Ecco, aggiungiamo, l'idea è anche di aumentare le tasse sui fondi hedge, sui private equity, che a quel punto, secondo di nuovo la proposta, le cifre che circolano, si parla del 35% e non del 15% sui guadagni di capitale, quella che era l'aliquota di guadagni di capitale che era stata tecnicamente considerata finora. Quindi un forte aumento di nuovo anche su hedge fund e su private equity, che a loro volta si trovano in difficoltà. Certo, uno dice, probabilmente profitti non ne avranno molti, quindi l'effetto rischia poi comunque sì, di essere, beh, certo. Però sono degli elementi restrittivi che hanno generato molte polemiche, al punto che in alcuni casi, anche col seguito della discussione sul pacchetto di stimoli, ricordiamolo, il bilancio annuale naturalmente rifletterà alcune forme di disavanzo derivante dal pacchetto di stimoli, però si tratta di voci una tantum, quelle che sono state annunciate qualche tempo fa, che vanno ad accumularsi naturalmente sul lungo termine del bilancio federale, ma è chiaro che l'obiettivo di Barack Obama è di non dover più fare degli stanziamenti straordinari come quelli che ha fatto quest'anno e di dover invece magari nel corso degli anni cominciare a recuperare un po' dei ritorni su questi investimenti, quindi con un ritorno della crescita economica, un ritorno di flussi fiscali e così via così via, in modo da poter poi diminuire questo disavanzo che non dovrebbe, secondo l'amministrazione Obama, avere una caratterizzazione, una connotazione strutturale. Detto questo, le polemiche sono forti, addirittura alcuni governatori repubblicani hanno detto che se non cambieranno delle cose o se Obama andrà avanti lungo questa strada, potrebbero anche rinunciare a quelli che sono alcuni degli aiuti previsti da alcuni dei pacchetti di stimolo. Ecco, io proprio su questo, in merito a questo, volevo chiederti, perché abbiamo letto sui giornali italiani che ad esempio il repubblicano Schwarzenegger si è schierato con Obama, sostiene questi piani di Obama. Sì, Schwarzenegger è un caso a parte. Schwarzenegger è un pragmatico, non è il tipico ideologo repubblicano come quelli che conosciamo all'interno del partito. Schwarzenegger è governatore della California perché è uno degli uomini più popolari dello Stato, direi sì, dell'America, del mondo, e quindi così è un repubblicano. È un po' a parte. È un repubblicano sui generis, ricordiamolo, la moglie è la Shriver, è una Kennedy, la madre della moglie è una sì, Kennedy, quindi è una cugina di Caroline, prima di Caroline Kennedy, nipote di Bobby, nipote di Jack Kennedy, del presidente ucciso, quindi la moglie è comunque molto identificata col Partito Democratico. Lui sì, è stato eletto così lungo le file del Partito Repubblicano, ma è sempre stato molto pragmatico, ha sempre navigato acque di mezzo. Sì, secondo me il fatto che Schwarzenegger sia, che tra l'altro ha un disavanzo spaventoso e quindi ha bisogno sì, disperato di questi soldi, non fa testo. In questo caso, ecco, stiamo entrando in una partita politica molto dura su cui si giocheranno i destini dei due partiti nei prossimi anni, perché se la partita di Obama non funzionerà come Obama si augura, ecco che allora i repubblicani torneranno alla carica dicendo: vedete, ha sbagliato, non ha seguito il nostro consiglio. Schwarzenegger è un caso a parte. Intanto vedremo giovedì che cosa succederà quando la bozza verrà presentata al congresso. Grazie a Mario Platero in collegamento da New York. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è rinnovato per domani. Io ringrazio in redazione Mauro Del Corno e Gaia Romani, in regia Fabio Cantadori, e appunto ci risentiamo domani alle 17:00.